America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, fanno veramente spirito di gruppo, bisogna imparare non solo l'inglese ma imparare dagli inglesi. Avete sentito, era Stefano Tonchi, dice beh, insomma noi qui in America come italiani potremmo avere più successo, però gli inglesi ci battono, intanto hanno il vantaggio della lingua e poi fanno squadra, mentre invece noi la facciamo di meno. Però io ho cercato di prendere lo spunto un po' da quello che diceva Stefano, anche per andare un po' a cercare qui in America, come sapete, lo faccio spesso con la storia del suolo andata, italiani che invece sono arrivati in America e hanno avuto successo, sono riusciti a trovare il loro sogno americano. E come l'hanno trovato? Beh, molto spesso con l'acquisto di un biglietto di suolo andata, cioè a un certo punto dicono ma vado in America e chissà che lì non riesca a raggiungere o i miei sogni, o avere fortuna, o fare qualcosa di diverso nella mia vita. E allora oggi, in questa puntata di Solo Andata, voglio darvi una notizia. E la notizia qual è? Che c'è il primo Chief Executive Officer, dunque amministratore delegato, di una azienda pubblica americana, e sottolineo americana, donna e italiana. E dunque, insomma, per me è una notizia questa molto importante, molto rilevante, perché in realtà, come diciamo con Stefano, poi abbiamo dei casi di successo. Per esempio Sergio Marchionne, che è riuscito a trasformare la Chrysler e che in America lo chiamano Marchionne con una pronuncia con la I finale. La combinazione vuole che questa donna di successo, che a un certo punto arriva in America, voleva venire in America, ci ha messo un po' di anni prima di arrivare in America ed è stata nominata recentemente amministratore delegato di Lands' End, che è una grossa azienda che opera nel settore dell'abbigliamento e che vende soprattutto attraverso cataloghi, ma che ha anche numerosi negozi, $1.5 miliardi di fatturato, 5.000 dipendenti, quindi insomma una grande azienda, si chiama Federica Marchionne, però Marchionne all'italiana, con la I finale, non con la E, quindi abbiamo anche questo strano sinonimo. E Federica Marchionne è qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Federica. Buongiorno. Allora Federica, dunque lei sbarca in America non tanto tempo fa, perché mi sembra che sia arrivata nel 2011. Ottobre 2011, arriva in America come capo americano di Dolce & Gabbana, sì. Ma riesce a fare quel passaggio che raramente si riesce a fare partendo e arrivando dalla cultura italiana, cioè lei sfonda in America e diventa amministratore delegato di questa società pubblica. Ma come ci è riuscita? Come dico a tanti, bisogna avere una grande visione. Prima la si ha, meglio è, perché poi bisogna lavorare, implementare la strategia personale che si può perseguire, fare passo dopo passo. E vorrei tanto dire ai giovani di iniziare dalle prime armi con già l'idea di quello che vorrebbe essere il loro sogno, il punto finale di arrivo, ma di avere la grande umiltà di fare tutti i passaggi e non pensare che si arrivi ad essere amministratori delegati molto giovani, anche se mi considero ancora giovane, però ho 20 anni di esperienza e ho iniziato facendo una product manager in Samsung tantissimi anni fa. Ecco, quindi lei comincia a sapere, però lei aveva già questa ambizione di guardare fuori dall'Italia, questa ambizione di fare delle cose, questa ambizione magari di diventare, non so se ce l'aveva da giovane, ma anche di diventare amministratore delegato o no? Sì, confesso che ce l'avevo da quando avevo 16 anni. Quindi, quando aveva 16 anni, hai capito? Quindi ragazzi, ascoltate, sedicenni, genitori di sedicenni, cioè tutto è possibile, basta volerlo. Lei però ha molta grinta. No, non basta solo volerlo. Esatto, è quello che diceva, molta grinta. Allora, quali sono stati i passaggi? Lei ha menzionato la Samsung, quindi lei fa economia e commercio, finisce l'università e poi approda alla Samsung e da lì comincia un'esperienza nel product management. Sì, vorrei sottolineare che non basta soltanto volerlo, ma ci vuole tantissimo sacrificio ed è il principio che si dice sempre ai giovani, però quello che posso dire è che il sacrificio può essere ripagato, viene ripagato, nel mio caso è un caso anche fortuito, perché ci vuole anche la fortuna. Quindi però sicuramente bisogna avere chiarissimo le idee di dove si vuole arrivare e quindi fare ogni passaggio, ogni scelta, pensando a lungo termine, non soltanto al primo step. E io arrivo in Samsung Samsung, per esempio, perché ho scelto di fare una tesi di laurea sperimentale in telefonia cellulare, quindi non è stato un caso la mia scelta della tesi e non è stato un caso che sono arrivata in Samsung. Ecco, però è stato un caso il modo in cui poi è approdata da Dolce & Gabbana, se non sbaglio. Absolutely. Perché li incontra per caso in aeroporto, non sa neanche che sono Dolce & Gabbana, ma l'aereo sta andando, dove andava? A Stoccolma per un festival della MTV, sì. O qualche cosa, per un concerto. MTV Music. E allora che cosa succede? Cos'è che scatta in lei? Vede questi due e gli vuole vendere i telefonini perché lei era al collega. Sì. All'epoca ero in Ericsson e gli chiesi che telefono usavano, loro mi hanno detto Motorola, quindi volevo convincerli a convertirsi. Ecco, però lei non sapeva che loro erano Dolce & Gabbana. Inizialmente no, ci siamo presentati. Parlate là. Così come passeggeri che parlano e poi cos'è successo? Che uno dice io piacere, mi sono... Questo potrebbe essere uno dei casi fortuiti perché avevo appena acquistato un prodotto Dolce & Gabbana e ce l'avevo nel mio duty free bag e quando si sono presentati dicendomi sono il signor Stefano Gabbana, sono il signor Domenico Dolce, e io ho detto beh, io sono una vostra cliente. E quindi diciamo quindi... c'è rimasta un attimo perché sì. Come si dice, ecco. E poi però loro la chiamano e quindi deve aver fatto un minimo di impressione perché la chiamano e le offrono un posto di lavoro, no? Sì, è stato il mio primo passaggio, cambio decisivo della mia carriera. Ci siamo conosciuti nel 2000, abbiamo cominciato a parlare nell'aprile del 2001, sono approdata in Dolce & Gabbana, con all'epoca una serie di pregiudizi del mondo del lusso, perché io venivo dal mondo consumer, certo. Mentre adesso in questo momento vivo un po' l'opposto. Ecco, poi però, appassionata ovviamente di lusso, lascia Dolce & Gabbana e passa alla Ferrari, e lavora alla Ferrari, quindi devo dire una carriera brillantissima, però la cosa che mi ha colpito è che lei in fondo si è formata in Italia, quindi il nostro paese è un paese dove ci si può formare, dove si può crescere, perché lei è arrivata in America soltanto 4 anni fa, se non sbaglio, e quindi un passaggio, filiali di case straniere in Italia, però lavorava in Italia, poi Dolce & Gabbana, poi la Ferrari, poi ritorna con Dolce & Gabbana in America dove apre le loro attività americane o comunque le sviluppa, e poi il passaggio verso un'azienda americana che è appunto Lands' End. Ma lei mi ha detto prima, dice, io qualche volta mi sentivo un po' straniera in Italia. Come concilia questo fatto che la sua carriera è nata lì, quindi i giovani italiani possono costruirsi delle fondamenta solide in Italia, ma bisogna anche sentirsi un po' straniere in Italia per guardare oltre? Innanzitutto, quando ero studentessa, ho fatto un'esperienza ottima nelle nostre università e sono stata ben preparata e ho fatto un'esperienza eccezionale in Dolce & Gabbana, che ringrazio ogni giorno per tutto quello che mi hanno insegnato. Sì, mi sono formata in Italia, ma ho sempre avuto la vocazione per il global world, quindi già da quando ero studentessa, per esempio, facevo dei viaggi all'estero, sono stata, ho fatto l'Interrail, ho fatto l'Erasmus, sono stata in Australia appena laureata e ho cercato di avere un lavoro che fosse il più possibile globale, quindi potesse permettermi di viaggiare dal Giappone alla Russia, al Middle East, all'America. Ecco, poi mi spiega perché si sentiva straniera in Italia. All'università, quindi parliamo di molti anni fa, non c'era nei miei colleghi la stessa voglia di guardare all'estero con un occhio critico, cosa poter imparare dall'estero, cosa poter portarsi dentro, in che cosa potersi arricchire. Per me ogni cosa rappresentava un'esperienza, volevo parlare più lingue possibili, ne ho studiate 4, ho iniziato anche a studiare il mandarino, che non parlo al momento, ma mio figlio è già bilingue e sta imparando il mandarino a 7 anni, perché ho capito che bisogna iniziare da ancora prima. Però lei aveva un sogno americano anche, cioè lei aveva questo, sì, obiettivo di venire in America. Sì, è sempre stato il sogno. E perché? Ma perché aveva questa cosa dell'America? Credo ci sia un po' come succede quando ci si innamora, non so, è stato un amore a prima vista, e sicuramente l'America per la struttura lavorativa, per l'organizzazione, per la tecnologia e poi anche per lo spirito positivo, ottimista e di fare. In questo paese se si pensa a un progetto, il progetto si può realizzare, basta mettere le risorse ed è un po' molto il mio spirito, la mia personalità e soprattutto lavorare duramente. sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho qui con me Federica Marchionni, che adorava l'America fin da quando era lontana. E qual è una canzone americana, Federica, che vogliamo lanciare o che l'ha particolarmente colpita? È abbastanza recente, ce ne sono tantissime, ma quella che recentemente mi ha colpito di più è quella di John Legend, If You Are Out There. If You Are Out There, John Legend. If you hear this message, wherever you stand, I'm calling every woman, calling every man. We're the generation, we can't afford to wait. The future started yesterday, and we're already late. We've been looking for a song to sing. We search for a melody, search for someone to lead. We've been looking for the world to change. If you feel the same, then go on and say, if you're out there, sing along with me. If you're out there, I'm dying to believe that you're out. Stand up and say it loud. If you're out there, tomorrow's starting now. No more broken promises, no more call to war. Less is love and peace that we're really fighting for. We can destroy hunger, can conquer hate. Put down the arms and raise your voice. We're joining hands today. I was looking for a song to sing. Search for a leader, but the leader was me. We were looking for the world to change. We can be heroes. Wherever you stand, I'm calling every woman, calling every man. We're the generation, we can't afford to wait. The future started yesterday, and we're already late.